Linee d'ombra di Matteo Caccia. Questa voglia di far vedere che riuscivo anch'io a emergere, diciamo così, come l'ho fatto poi nella vita, no? Forse è stato il primo spunto. E alla fine venne il giorno della Madonna e mai nome fu più azzeccato. E venne anche il raduno dei marciatori e tra i tanti spuntai anch'io. Storie di ordinarietà e straordinarietà in una puntata che si intitola Fuori dall'ordinario. Noi non siamo mai stati antipsichiatri, noi siamo stati delle persone, di operatori che hanno agito sul campo reale, così, delle istituzioni pubbliche, per dare al cittadino che soffre una risposta alternativa alla violenza, così alla repressione del manicomio. La situazione della psichiatria in Italia è ancora una situazione, da un punto di vista reale, da quello che è la situazione delle istituzioni pubbliche, ancora molto regredito. I manicomi per lo più sono manicomi ancora come erano 30 anni fa. Quello che è importante è che si è verificato un movimento che si mette dalla parte di chi non ha, non dalla parte di chi ha. La voce, anche se un po' distorta, si sente che è una voce che arriva dal passato, che avete appena sentito, è la voce di Franco Basaglia. Franco Basaglia è un nome che ci ricordiamo anche e soprattutto perché a suo nome è stata varata una legge, la legge 180, che viene ricordata come la legge che ha chiuso i manicomi, cioè la legge che ha liberato delle persone che in qualche modo erano davvero chiuse dentro, erano internate, erano dei prigionieri veri e propri. È molto complesso il discorso che riguarda la legge Basaglia, che riguarda l'apertura, la chiusura, perdonatemi, la chiusura dei manicomi in quegli anni. Ve lo raccontiamo oggi perché oggi sono esattamente passati più di 40 anni, era il 13 maggio del 1978, sono quindi 42 anni esatti che viene promulgata questa legge. E oggi vi racconteremo anche una storia che arriva proprio da là e che arriva dalla viva voce di uno psichiatra che era giovanissimo all'epoca a Gorizia e poi a Trieste e ha lavorato proprio con Franco Basaglia, l'ha vista, l'ha vissuta e ci racconterà una piccola storia, ci racconterà quella voce una piccola storia di un uomo che ha beneficiato di questa possibilità e che dopo 25 anni è tornato a vivere, è tornato a casa sua, è tornato a gestire il suo orto e a pescare con la sua barca. È una storia molto toccante e molto bella che arriva proprio dalle parole di Peppe Dell'Acqua. Vi racconteremo poi invece un'altra storia di un uomo che non viveva un disagio mentale, aveva un disagio per lo più fisico, ma era considerato un diverso, era considerato uno appunto fuori dall'ordinario. Si intitola così questa puntata, in parte celebra quella giornata di 42 anni fa, ma soprattutto racconta storie. È quello che facciamo qui a Linee d'Ombra tutti i giorni. Vi raccontiamo storie che stanno al confine delle cose, che hanno diciamo due mondi possibili da vivere, uno prima e uno dopo quella Linee d'Ombra. Sicuramente la storia che stiamo per raccontarvi del nostro ascoltatore è stato un confine estremo per lui, perché grazie ad una corsa che corre in maniera inaspettata, la sua vita di lì prenderà una piega completamente diversa, quindi quella linea è davvero una 10 km intorno al suo paese. E poi vi racconteremo una micro storia, come vi dicevo, che arriva da quei giorni, che arriva da quegli anni della fine degli anni 70, in cui davvero la legge 180 ha segnato un confine che hanno varcato moltissime persone che erano chiuse dentro. Chiaramente per saperne di più ci sono tutti i modi possibili per informarsi, dall'istituzione negata, che è stato il testo di Franco Basaglia, che era in sostanza un rapporto dall'ospedale psichiatrico di Gorizia, dove lui ha cominciato a operare proprio in quegli anni. Ma noi andiamo con ordine, partiamo dalla prima storia e poi andiamo verso le altre, verso la storia di Peppe Dell'Acqua e poi verso i vostri diari dalla quarantena e poi la nostra storia seriale, che oggi ha sì veramente una grande svolta. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Dachau. questa piccola parola mi ossessionava. Ero nato dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, la più terribile. Avevo 13 anni. Giocavo con una baionetta, con la faccia coperta da un'ammaccata maschera antigas. E ai piedi avevo degli enormi stivali tedeschi. Mia mamma, come tante ragazze della fine della guerra, evidentemente presa dallo spirito della liberazione, si era lasciata affascinare da un soldato americano. Ora che sono adulto e vaccinato, come si dice, non le rimprovero certamente niente, ma quando ero ancora piccolo, tante volte avrei voluto chiederle se doveva veramente farmi come sono venuto. Per così tanto poteva fare a meno di lasciarsi affascinare. Magrissima lei, magrissimo l'americano, magrissimo e ossuto io. Nacqui piccolo, ma piccolo non dice tutto. Ci sono piccoli molto belli, altri belli e molti piccoli normali. E poi ci sono altri piccoli, brutti, storti e malfatti. Io ero uno di questi. Non avevo infermità di nessun genere, ma ero terribilmente magro, magrissimo. Il naso me lo ero rotto giocando e adesso avevo una vistosissima gobba che dominava una faccia già bruttina di suo. Orecchie a sventola non mancavano e per finire ero un quattr'occhi. Terribile colpa, un quattr'occhi era già una cosa orrenda, poi, aggiunta alle altre, facevano il quadro completo. Mi soprannominarono Dachau. Mia mamma a quei tempi gestiva un bar e quindi naturalmente mi vedevano tutti, era appena finita la seconda guerra mondiale, io mi ricordo ancora degli americani, dei tedeschi, ho esperienza in quei tempi lì perché era uno di quelli che guardavano. Naturalmente si mangiava poco, erano tempi difficili, si lavorava tanto, io lavoravo nel bar, lavoravo nel negozio. I miei erano tutti e due magrissimi, tra mio papà e mia mamma avranno pesato, sì o no, buttiamola là 80 kg, tutti e due insieme. E quindi chiaramente io potevo venire fuori, infatti anche adesso io ho preso 58 kg. Sono alto 1,76, quindi abbastanza alto, però il peso, sono magrissimo. Quella volta avevo solo ossa, no? E quindi c'erano Auschwitz, Dachau e tutti questi qua, io sembravo uno uscito dal campo di concentramento, no? Tutti sapevano e si raccontavano le terribili storie di quel luogo dove bruciavano i cadaveri. La fantasia di noi ragazzini ne era allo stesso tempo affascinata e terrorizzata. Si raccontava che però i tedeschi bruciavano lì dentro in grossi forni solo i più brutti, quelli che ovviamente bruciavano meglio. A me questa cosa bruciava. Bruciava, ma non potevo farci niente. Ero un Dachau. Così, semplicemente, era capitato a me. Un giorno, mentre vagabondavo solitario, girando l'angolo della chiesa sul viottolo che la costeggiava nella parte posteriore, mi trovai a leggere il cartello delle prossime manifestazioni agostane della Madonna, con tanto di bancarelle, dolci, musica e come spettacolo nello spettacolo la grandiosa marcia dei 10 chilometri intorno al paese, con tanto di regali e riconoscimenti per il vincitore. Gara aperta a tutti. Ero lì, con la testa nella mia fantasia. Pensavo a Loretta. Pensavo se fossi stato uno di quei ragazzi del paese alti, robusti e belli. Chissà che bello. Perché non potevo essere anche io uno di quelli? Toh, guarda chi c'è! La voce in sé diceva già tutto. Era la voce di Alessandro. Lui sì, alto, biondo, bello, robusto e sorridente. E soprattutto strafottente. Non se la risparmiava mai. Soprattutto quando gli capitava di incontrarmi. Naturalmente a lui si accodarono in grandi risate i suoi sottoposti che lo seguivano sempre nelle sue scorribande in giro per il paese. E a lui, da quanto si diceva, non mancavano le ragazze. Magari anche Loretta ci aveva fatto un pensiero, chi lo sa. «Cosa guardi?» mi chiese. «Ah, capisco, vuoi partecipare alla marcia?» «Beh, Dachau come sei, vincerai senz'altro perché tu volerai invece di camminare», mi disse. Sei pelle e ossa, basta che sventoli le orecchioni che hai e il vento ti porta via al traguardo. E giù sghignazzate e ingrandite dal codazzo dei sottoposti. Dai, dai, facci vedere come fai a volare, facci vedere! Sul momento mi aveva preso una furia scomposta ed ero sul punto di lanciarmi in mezzo a loro, ma poi vinse il cervello. Mi voltai e me ne tornai indietro, da dove ero venuto. A time to kill. Quella notte non dormii proprio. Non avevo neanche cenato. Rimuginavo, pensavo, almanaccavo. Poi un pensiero mi spuntò, non richiesto ma insistente. Perché non avrei potuto partecipare anch'io alla marcia? Forse Alessandro, sghignazzando, ne aveva detta una giusta. Ero magrissimo e chissà, forse anche senza volare, utilizzando le orecchie, avrei potuto correre. Utilizzando le gambe che erano pur buone e anche allenate con i tanti giri per il bosco che facevo da solo. Ci pensai e ripensai. È l'occasione della vita, pensai, adesso o mai più. Alessandro aveva lanciato la sfida. Che cosa ci avrei perso? Se perdevo sarei semplicemente rimasto un dacao. Io, a differenza di Alessandro, non avevo nulla da perdere. D'accordo, mi dissi. Proviamoci, con tutto il mio impegno. I giorni seguenti, e anche tante notti, i sentieri del bosco e anche alcuni massi ai piedi delle montagne mi videro frequentemente. Avanti e indietro, su e giù, attento a non farmi scoprire. Non avrei resistito se qualcuno avesse solo capito quel che volevo fare. Volevo fare una pazzia. Venne il giorno della Madonna, e mai nome fu più azzeccato. E venne anche il raduno dei marciatori. E io ero tra quelli. Accolto ovviamente dai commenti più disparati. «Dai, vai a casa che qui si lavora!» Questo era il più tranquillo, e i sorrisini poi non mancavano. Alessandro era lontano. Non ritenne nemmeno di venire a dire la sua. Ma forse aveva intuito che questa volta, chissà, anche un dacao ce la poteva fare. Partimmo, ero nel gruppo. Questa volta il mio corpo doveva tirare fuori tutto. Dalle ossa, ovviamente, perché di carne e grasso ce ne stava proprio pochissimo. Ma io mi ero un po' preparato correndo per i campi di qua e di là. Naturalmente sapevo che avevo bei limiti, no? Anche se, essendo magretto, essendo uno che non volava, eccetera, avevo un'idea che ce l'avrei fatta, insomma. E quindi è chiaro che non avrei pensato che fosse abbastanza lunga, abbastanza tirata. Quindi alla fine sono arrivato che non sapevo neanche dove stavo andando. Aveva anche piovuto. I sentieri della marcia erano anche scivolosi. In molti erano già caduti. Ovviamente Alessandro era fra i primi, attorniato dai suoi sgherri. Io tenevo duro, sentivo che il mio corpo stava veramente ricorrendo a risorse che non avrei mai immaginato di avere. Tenere duro e andare avanti. Lo avevo letto su un manifesto stracciato trovato nel bosco. Tenere duro e avanti, diceva il manifesto. E se l'avevano scritto loro così, bisognava farlo, no? Tenere duro, tenere duro. Improvvisamente mi accorsi che ero dietro ai primi, se non avevo visto male. Mi venne vicino uno del gruppo di Alessandro. Non vorrei mica pensare di arrivare fra i primi, mi disse. Inaspettatamente mi diede uno spintone. Finii dritto nel fango, mi rialzai, non dissi una parola e ripresi. Tenere duro. Ma sì, si poteva tenere duro e magari cercare di aumentare anche il passo, pensai. Non ho niente da perdere. Ed eccolo là, Alessandro, col suo codazzo di servitori. Non ne mancava nemmeno uno. Si misero dietro di lui cercando di ostacolare chi cercava di superare. Bella mossa, ma la mia fu migliore. Riuscii a passare approfittando di uno scivolone di uno dei suoi servitori. Lo presi alla sprovvista. Loro cercarono di inseguirmi, ma forse a quel punto utilizzai veramente, come mi aveva consigliato lui, l'aiuto dell'orecchia sventola. Volavo. Ero allo stremo, non ce la facevo più. Ero davanti a tutti però, e volavo. Ormai nessuno mi avrebbe ripreso. Avevo realizzato di essere il primo. Un dacao primo. Improvvisamente mi sentii afferrare, cercai di liberarmi da quella stretta. «Fermati, fermati, basta!» Mi guardai in giro, c'erano i compaesani che mi bloccavano. Mi ci volle un po' per capire cosa accadeva. Poi arrivò una voce. «Hai vinto! Hai vinto! Fermati!» Avevo vinto. Sì, avevo vinto io. Il resto fu storia, che si raccontò ovviamente a lungo, e che soprattutto mi servì tantissimo nella vita per farmi tanta strada e per aiutare altri dacao come me e spiegare loro che ce la potevano fare. Ah, e Loretta? Scoprì che con Alessandro non si era mai messa, ma dopo la mia vittoria, sarà stata la compassione per il secondo, sarà stato il fatto che le donne sono in fondo un po' crocerossine, tra lei e Alessandro scoccò la scintilla. Sono ancora insieme, oggi, hanno due figli. E alla fine Alessandro lo ringrazio anch'io. Forse oggi senza i suoi sberleffi, forse sarei ancora un dacao. Looking back at the years gone by like so many songs. Noi qui a Linea d'Ombra, cioè tutta la redazione di Linea d'Ombra, ha davvero adorato la storia di Giovanni, perché è una storia che, diciamo, non si tira indietro, nel senso che Giovanni è molto crudo nel suo raccontarla ed è anche, però, diciamo, concede molto alle persone che fanno parte di questa storia, perfino a Loretta, alla fine, insomma, è come se dicesse: ha fatto le sue scelte ed è andata bene così. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Senti, innanzitutto, ma la crudeltà con cui è stato scelto questo nome, il nome Dachau, è una cosa che accade secondo te ancora oggi oppure appartiene a 50-60 anni fa? Diciamo che accade sempre. Ok. Accadeva prima, accade adesso e accadrà secondo me sempre, perché siamo un po' cattivelli dentro. E quindi... Senti, tu quanto l'hai patita però questa cosa? Cioè, quanto questa cosa ti ha segnato e ti ha cambiato poi nel tempo? Diciamo che mi ha dato veramente una bella sterzata per andare avanti nella vita. Per dire, anche se sei, come ero io, mingherlino, avevo e ero un Dachau, perché veramente sembrava uscito dal campo di concentramento, non c'è niente da dire. Però la voglia di riscattarmi, di far vedere che qualcosa sapevo dire, ti dà una spinta, e mi ha dato una spinta quella volta, e poi mi è servita per tutta la vita. E per dare la mano anche a chi più o meno era un Dachau come me. Senti, tu poco fa fuori onda mi raccontavi che hai fatto una vita, diciamo, molto ricca. Me la riassumi velocemente. Tu sei della provincia di Udine, di un paese che si chiama Qualso, mi dicevi, giusto? Esatto, esatto. E quindi mi hai detto, sono un tipo qualsiasi, gli abitanti di Qualso sono persone qualsiasi. Esattamente. Io, come capita a tanti, arrivi a dei bivi nella vita dove ti propongono questa roba o quell'altra, mm-hmm. e devi fare delle scelte. Io, quando mi chiedevano: senta, lei vorrebbe lavorare sui nostri cantieri all'estero? Va bene, andiamo. E da lì saltavano fuori delle cose, quindi poi, che so, contatti con gli ebrei che mi hanno detto: venga a lavorare con noi. Poi da lì ho cominciato a maneggiare i soldi di questi operai che erano lì, e ho visto che lavorare sui soldi era interessante, e quindi sono passato nel ramo dei soldi. Però sempre non ho mai rifiutato niente. Tu conoscerai delle persone che magari dicono: oh, sì, un bel lavoro, ma non so se sono portato. Mm-hmm. Io quella domanda lì non me la facevo. Non te la sei mai fatta. Ma quindi esattamente che tipo di mestiere hai fatto? Tu che formazione hai, Giovanni? Allora, io di partenza ero ragioniere, poi ho fatto vari corsi di addestramento. E quindi ho iniziato facendo ragioniere in qualche ditta che era già multinazionale. Quindi da lì ho cominciato a girare un po' nelle varie fabbriche che erano in giro per il mondo. E da lì poi mi hanno proposto di lavorare, appunto, come dicevo prima, in cantieri all'estero. Okay. Quindi ho lavorato a Trinidad e Tobago, in Israele e un po' in tutto il mondo. Quindi ho girato veramente tutto il mondo. Ok. Invece, perdonami Giovanni, vorrei tornare alla storia, perché la storia comunque è molto interessante. Sì. Visto che noi, appunto, le storie che raccontiamo hanno a che fare con un confine, con un passaggio, possiamo dire che quella corsa lì, quella marcia, per te è stata veramente una svolta nella vita, in qualche modo? Cioè, hai capito: beh, anch'io, anche se sono mingherlino, magrolino, anche se tutti mi prendono in giro, ce la posso fare. Sicuramente sì, ma mi ha fatto capire che se si vuole si arriva dove si vuole, è vero. E che fine hanno fatto invece Loretta e Alessandro, le più rivisti? Ma sì, ti dirò, Loretta si è sposata, ha avuto una bella vita di coppia, suo marito è morto, probabilmente per causa del fumo, e adesso abita vicino a me, andiamo a fare zitta insieme, adesso siamo anziani. Siamo, io ho 73 anni, lei ne ha 72. Naturalmente ormai i sogni che avevi ai tempi della corsa non ci sono più. Però guarda tu il destino come ha chiuso un cerchio. Abbiamo un bellissimo rapporto, guarda, lei è ancora una bellissima donna. Ma gliel'hai detto che hai raccontato questa storia? No, non ho avuto occasione di dirlo. Okay. Però glielo dirò. Magari le mandi il podcast, magari le mandi il link del podcast, sì. Oppure mentre hai fatto una passeggiata fai partire il podcast e gliela fai sentire. Potrebbe essere... Ma sicuramente, abbiamo un ottimo rapporto. Un'idea. Senti Giovanni, ti ringrazio davvero tanto per la storia, per la chiacchierata. Oggi vai a farti una passeggiata. Come si passa il tempo lì? Com'è in questo momento in Friuli la situazione? È un bellissimo sole, stiamo tanto bene che mai. E il virus, se non avessimo la radio e la televisione, ci dice che c'è un virus da qualche parte, e credi a me, non sapremo neanche che c'è. Vabbè, meglio così. Giovanni, davvero ti ringrazio molto, e quando vuoi mandarci una storia sappi che noi ci siamo. Ok, sarà fatto. A presto, in bocca al lupo per tutto. È una storia in qualche modo fuori dall'ordinaria quella che ci ha raccontato Giovanni, devo dire anche per la crudezza con cui, per la cattiveria con cui vengono probabilmente ancora tuttora appellate alcune persone che sono in difficoltà rispetto ad altre, qualcosa che forse appartiene più ai piccoli centri, ai paesi o ai quartieri o alle scuole anche, alla fine insomma la cattiveria dei bambini è evidente, no? Non ha filtri, e quindi spesso e volentieri le cose più terribili nascono, i nomi, i nomignoli nascono proprio quando si è bambini. Oggi lo si chiama bullismo, ma è esattamente la stessa cosa. Giovanni fortunatamente però ne è riuscito a uscire. Fuori dall'ordinario appunto la puntata di oggi, adesso ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo con un'altra storia che parla di persone che vivono una vita là fuori. Linee d'ombra. Oggi è il 13 maggio del 2020. Sono passati 42 anni dal 13 di maggio del 1978, giorno in cui, grazie allo psichiatra Franco Basaglia, una delle figure più rivoluzionarie del panorama sanitario di questo paese, in Italia viene promulgata la legge che ancora oggi porta il suo nome, che aboliva i manicomi e la coercizione per le persone affette da malattie psichiatriche. Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, disse un giorno Basaglia. È importante che noi, adesso, abbiamo provato che si può fare diversamente. Ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione, anche senza la costrizione. Ecco, uno dei giovani psichiatri che in quel periodo venne chiamato a Trieste proprio da Franco Basaglia per iniziare questa lenta e dolce rivoluzione si chiama Peppe Dell'Acqua. Lo abbiamo sentito al telefono qualche mese fa, se non ricordo male, proprio qui a Linee d'Ombra per fare una chiacchierata, e tra le tante cose che ha fatto ha diretto per 17 anni proprio il centro di salute mentale di Trieste, Peppe Dell'Acqua, e di recente ha raccontato quell'esperienza in uno spettacolo molto bello che si intitola Tra parentesi, e lo ha fatto insieme a Massimo Cirri. E in questa puntata che celebra quel 13 maggio del 78 vi raccontiamo una storia piccola ma bellissima, presa proprio da quel racconto, da quello spettacolo. Una storia che Peppe Dell'Acqua ha vissuto personalmente. Il protagonista si chiama Giovanni. Siamo nel padiglione di salute mentale di Trieste, siamo alla fine degli anni 60 e questa è la sua storia. State con noi. In quegli anni sono molto impegnato con un internato, si chiama Giovanni Dotz. Non riusciamo a portare avanti alcun progetto con lui. È un uomo buono, mite, però non riesce a parlare, le parole le bisbiglia soltanto. È un tipo ossequioso, fin troppo. Tiene sempre in testa un suo baschetto blu. A un certo punto decido di andare con Giovanni al laboratorio. Lui non vuole venire, solo dopo varie insistenze, finalmente una mattina riusciamo a recarci tutti insieme nel padiglione P. Giovanni lo avevo conosciuto un anno prima, credo in primavera, mentre era intento come sempre a rifare i letti del reparto e a mettere in ordine la cameretta. Lui non diceva nulla e nella sua cartella non riusciva a tirare fuori granché. Era una cartella smilza con la foto segnaletica sulla pagina interna e pochissime parole. Tra queste ce n'era una, ricorrente: schizofrenia. La diagnosi che veniva confermata ogni anno. Era nato a San Giovanni di Umago, in Istria, oggi è Croazia, ed era arrivato in manicomio nel 1947, lo stesso anno in cui sono nato io. Allora avevo 25 anni, appunto, 25 anni di vita, di crescita, di esperienze, di viaggi. Di lì a poco sarebbe nato mio figlio Andrea. In quei 25 anni Giovanni è rimasto nello stesso luogo, nello stesso corridoio, nelle stesse stanze. Faccio tuttora fatica a spiegarlo, ma a Giovanni, come tutti gli internati nelle istituzioni totali, il tempo viene sottratto, viene rubato. Giovanni aveva vissuto e viveva ormai senza più tempo. C'era qualcosa di interessante, però, nella cartella. Qualcosa di interessante quanto incomprensibile. C'erano le lettere che lui scriveva instancabilmente, indirizzate al direttore del manicomio, in cui chiedeva un pezzo di terra proprio lì, nell'istituto. Prima di essere internato era stato un contadino e lui voleva tornare a lavorare la terra. Nelle lettere aggiungeva anche una banconota da 500 lire, una di quelle vecchie di colore verde. Il suo parlare sconnesso era per gli infermieri e per quelli che mi avevano preceduto il segno evidente che Giovanni era schizofrenico e lo sarebbe rimasto per sempre. Quella mattina andiamo insieme al laboratorio. Prendiamo un foglio bianco e un pennarello e per prima cosa disegniamo la sua silhouette. Quindi il basco blu in testa, la giacchettina striminzita, la camicia senza il collo. Giovanni, sempre bisbigliando, quasi timoroso, cerca di parlare con noi. Parole che ho già sentito tante volte. Chissà perché però questa volta cominciano a prendere una forma più compiuta, ad avere una comprensibilità. Una di queste è la parola Messina. Finalmente capisco che non parla della città, è il nome di una barca. Messina è il nome di una barca da pesca. La disegniamo sul foglio. A bordo di questa barca c'è il padre, si chiamava anche lui Giovanni. E poi ci sono lui, che è il primo figlio, in Istria si usava a dare il nome del padre al primogenito. E poi ci sono i fratelli, Antonio e Guerino. Con questa barca erano soliti andare a pesca. Mentre lui sottovoce elenca tutti i pesci che pescava, noi li scriviamo e li disegniamo. Comincia così una piccola conversazione, fragilissima, con Giovanni. Quando lasciamo il laboratorio, qualcosa di Giovanni sembra si vada lentamente ricomponendo. Naturalmente, nell'urgenza, nel desiderio di fare tutto e subito, decidiamo che è necessario andare quanto prima a casa sua, in Istria. E così, già dal giorno dopo, cominciamo a studiare il modo. Sapete, allora non era come oggi. Fare una gita in Istria significava andare in un altro paese, superare un confine, appunto. Giovanni avrebbe dovuto superare il muro della schizofrenia, il muro del manicomio, il muro dell'Italia e della Jugoslavia. E così prepariamo le carte. Usciamo più volte insieme a lui per fare le foto, richiedere un documento d'identità e poi il lasciapassare in questura, che per quelli del confine orientale sostituiva il passaporto valido solo per recarsi nelle terre oltreconfine. A ogni uscita, di ritorno in manicomio, Giovanni mi scriveva una lettera con allegate 500 lire per ringraziarmi, perché ci stavamo occupando di lui. Non riusciva a credere che si potesse fare tanto. E poi finalmente arriva il giorno della partenza. Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Ci facciamo precedere da un telegramma e arriviamo a Umago, nella casa di Giovanni. Una tipica residenza istriana, in pietra, con accanto l'orto e dietro la vigna, e di fianco un piccolo molo di legno con la barca. Nel cortile ad attenderci ci sono tutti. C'è suo fratello Antonio con la moglie Maria, ci sono i due ragazzi più giovani, i nipoti di Giovanni, che lui non ha mai conosciuto. Ci sono anche i paesani, quelli che abitano lì a San Giovanni, ma sono venuti anche dagli altri paesi a vedere Ninin. Se lo ricordano, Giovanni, Ninin. Si ricordano di quando si nascondeva nei campi. Poi di lui non hanno saputo più niente, se non che era finito dopo il campo profughi nel manicomio di Trieste, perché è schizofrenico e pericoloso. Maria, la cognata, si avvicina e mi dice sottovoce: «Sa, dottore, Giovanni ha fatto il militare nella marina. La sua nave è stata bombardata e affondata in Sicilia o forse in Sardegna, non so. So però che è rimasto in mare per molti, molti giorni». E così un giorno Giovanni non è più tornato a casa. Lo hanno saputo molto più tardi che era finito nel campo profughi e poi nel manicomio. Prima di rientrare a Trieste, ci offrono il prosciutto, il pane caldo che Maria ha appena sfornato e dell'ottima malvasia che produce Antonio. Maria e Antonio ci vengono vicino e mi domandano: «Dottore, ma allora Giovanni è guarito, non è più pericoloso?» E io non so che cosa rispondere. Non sai mai cosa rispondere, perché è sempre una scommessa. E loro mi domandano: «Ma non potrebbe restare un poco qui con noi?» È sorprendente che in quel momento uno ti ponga una domanda del genere. E quindi io rispondo: «Sì, certo, perché no?» Ripartiamo. E già in macchina con Giovanni, che ora si è fatto leggermente più loquace, cominciamo a programmare il ritorno. Arriviamo a Trieste, in ospedale, ed è pomeriggio. Nel laboratorio sono ancora lì tutti quanti. Entriamo, il laboratorio si ferma, c'è un'attenzione incredibile intorno alla vicenda di Giovanni. La sensazione è che ognuno in cuor suo pensa che sia davvero possibile andare via, ritornare a ciò che si è lasciato. Giovanni è imbarazzato, ma quasi sorride. Le persone lo abbracciano, applaudono. Ora bisogna richiedere un permesso speciale all'ambasciata jugoslava, fare altre carte e documenti vari. Ci vorrà insomma un po' di tempo. Insomma, prima che finisca la primavera, accompagniamo Giovanni a Umago, nella sua casa. E poi torniamo a trovarlo ogni settimana, così come facciamo anche a Trieste con tutte le persone che riusciamo a dimettere. Così, per vedere come va. E va in una maniera che ci stupisce. Giovanni ha ripreso a lavorare nell'orto, nella vigna, ha ripreso ad andare in barca portandosi dietro i due nipoti e la domenica gioca a 3-7 e a briscola. È qualcosa di ricco che ci riempie di gioia. Durante una delle nostre visite, prima di andare via, Maria, questa volta da sola, mi prende da parte e mi dice: «Dottore, sa, Antonio, mio marito, non sta bene, non sta in piedi, non sta più sulle gambe. Visto che avete guarito Giovanni, non potete portare a Trieste un po' anche lui?» «Si può fare», dico, «e lo facciamo». In quel momento sembra che si possa fare veramente tutto. Qualche giorno dopo torniamo a prendere Antonio. Starà a Trieste per un paio di mesi. In ospedale c'è un reparto che si occupa anche di alcolologia. Sta lì con noi e in quei due mesi Giovanni ogni settimana si alza di buon'ora, prende l'autobus dal centro di Umago e viene a Trieste a trovare il fratello per il cambio di biancheria. È un mondo che si rovescia, veramente. È un sogno che si sta avverando. Non andiamo più a Umago, ormai Giovanni sta bene. Anni dopo mi trovo a lavorare a Barcola, vicino a Trieste, al centro di salute mentale. L'ospedale psichiatrico non c'è più. Una mattina, ad attendere davanti al cancello, arrivano due giovani uomini. Si avvicinano, sono i nipoti di Giovanni. Mi salutano con affetto, si ricordano di me. E dopo una breve pausa mi dicono: «Dottore, zio Giovanni non c'è più. Era morto qualche giorno prima, tirando su le reti, sulla sua barca, mentre sorgeva il sole, in mezzo al suo mare. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Ho avuto la fortuna di sentirla raccontare dalla viva voce di Peppe Dell'Acqua questa storia nel suo spettacolo, appunto, che si chiama Tra parentesi, di cui c'è anche un libro. Se avete voglia, cercatelo, lo spettacolo. Adesso sarà probabilmente, insomma, evidentemente tutto bloccato come tutto lo spettacolo dal vivo, ma sono molto sicuro che lo riprenderanno. Se abitate dalle parti di Trieste, date un occhio al sito del teatro di Trieste, perché doveva essere replicato lì e probabilmente verrà replicato, chi lo sa, la prossima stagione. Insomma, si intitola Tra parentesi, la vera storia di un'impensabile liberazione. C'è anche un libercolo che è pubblicato da Alfa Beta Verlag, è un piccolo editore che l'ha pubblicato ed è scritto appunto da Peppe Dell'Acqua, da Massimo Cirri e da Erika Rossi. Raccontato da Peppe ha tutto un altro suono e ha davvero delle sfumature che, insomma, solo lui riesce a dare, lui che l'ha vissuto, e lui che ha vissuto quegli anni incredibili insieme a quell'uomo pazzesco che è stato Franco Basaglia. Tra l'altro, una definizione pazzesca, non so quanto gli farebbe piacere, ma insomma avete capito di cosa parlo. Tra l'altro, Peppe è una persona che è un narratore nato, è uno che si mette lì e ti racconta delle storie meravigliose, ne ha vissute tante, ma è anche molto bravo a raccontarle. Quindi, se riuscite a vedere questo spettacolo, andate a vederlo, o altrimenti prendetevi il libro, si intitola Tra parentesi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Il diario della quarantena che è arrivato oggi e che stiamo per raccontarvi è un diario che sembra veramente preso da un pezzo di vita di provincia. Io la sento molto vicino a questa storia, anche se non sono della provincia di Novara, perdonatemi, anche se sono della provincia di Novara e non della provincia di Sondrio, come è per la protagonista di questa storia, e anche se io non sono tornato a casa dei miei, mentre lei sì, come sentirete dal suo racconto, c'è qualcosa di provinciale che rimane in chi arriva da fuori dalla grande città e ci viene a vivere, anche se ci vive da lungo tempo. Io sono più di 20 anni che vivo a Milano, però ad esempio c'è un modo di dire che è quando vieni su o quando vieni giù, dove si intende quando torni a casa, quando torni da noi, dipende da, diciamo, a che latitudine ti trovi, però su o giù è casa. Allora torni giù oppure vai su a Milano, al contrario o al contrario, appunto. E c'è tutto quanto un racconto di camerette di casa, della casa dove si è cresciuti, che diventano o sgabuzzini o lo studio del papà o della mamma, o il luogo in cui la mamma dipinge e il papà suona la chitarra, o viceversa, come vedremo in questa storia. E quindi c'è una riappropriazione degli spazi, dei tempi, di una casa che si era ormai abbandonata e dove ci si andava magari solo al pranzo la domenica, e si scopre che quei momenti, quegli spazi, quei luoghi possono anche essere comodi. Erano 9 anni ormai che non passavo 8 settimane intere e consecutive nella mia città natale, Sondrio. E ora siamo ormai a metà di questa trasferta non prevista nel piano annuale lavorativo. Prima l'università, poi il lavoro mi hanno portato a Milano, che mi ha adottato, dandomi più opportunità, amicizie, una nuova casa. Perché ormai per me casa è Milano. Avendo davanti a me settimane di smart working, visto che la società per cui lavoro si è attivata fin da fine febbraio, ho deciso di tornare subito vicino ai miei genitori. E da allora non torno più a casa. E mi manca Milano. Dopo 9 anni, di cui l'ultimo vissuto da sola, ho dovuto reinserirmi in casa e mettermi in un equilibrio e una routine che i miei ormai unici padroni di casa si erano costruiti. Dal principio temevo il peggio. Sempre più avevo l'idea che tornare a Sondrio fosse terrificante. Vedevo la possibilità di stare una settimana su come una tortura, ma pur sempre con l'aspettativa che nel giro di poco tempo sarei tornata a casa. E invece no. Ho imparato che stare nelle quattro mura con i miei genitori, anche forzatamente, e godermi la mia famiglia, ha il suo perché. vivermi il pranzo e la cena con la compagnia dei miei e non mangiare una schiscetta veloce o immensa con i colleghi, commentare il TG delle 13, imparare da mia mamma a suonare la chitarra, la suonavo ormai da decenni, vedere mio papà leggere, che rarità. In queste prime 4 settimane che viviamo assieme ci siamo ritrovati, ci eravamo lasciati che ero una ragazza, ci siamo riscoperti che sono una donna. E quindi? Sveglia alle 8. E viva, non alle 6.45. 20 minuti di yoga, sì, perché si è iniziato a fare pure quello. Lavoro e, finita la giornata lavorativa, 2 giri di chitarra e magari anche qualche canto con la mamma. Però essendoci tutti fermati, questa è anche l'occasione di vedere gli amici. Nessuno ha più trasferti in giro per il mondo, nessuno ha aperitivi o calcetti. Sembra strano, ma è anche l'occasione per vedere e parlare di più con chi di solito si fa fatica ad incrociare. Where can I find the city of shining light in an ordinary world? How can I leave a buried treasure behind in an ordinary world? The days into years roll by. It's where that I live until I die. Ordinary world. Sono 2 giorni che abbiamo attaccato una nuova storia seriale. Abbiamo cominciato con un nuovo racconto che in realtà è stata una lettera. Vi abbiamo letto una lunga lettera di un uomo che parla di sé, parla di quello che di terribile ha fatto, parla del figlio. Sappiamo che è in un carcere, sappiamo molto poco altro e abbiamo aspettato a dirvi quello che è successo e adesso lo scopriremo. Questo programma si chiama Linee d'ombra e questa è probabilmente l'ombra più cupa e buia che abbiamo mai percorso e raccontato. La lettera che vi ho letto nei giorni scorsi è apparsa su una rivista che si fa in carcere, si chiama Ristretti Orizzonti, ed è scritta da Giacomo, un uomo che si è macchiato di un reato gravissimo. Una mattina di qualche anno fa, senza nessun movente, ha colpito a morte la moglie, ha attentato alla vita del figlio e infine ha tentato, senza successo, di togliersi la vita. Si tratta, da quando raccolgo le testimonianze di vita delle persone, senza dubbio alcuno, della peggiore delle storie che ho incontrato e che mi ha creato una qualche difficoltà. Ma ho voluto farlo perché nella lettera che avete sentito c'era un passaggio che mi ha colpito ancora di più della tragedia. Era questo. «Ho iniziato i miei primi permessi a casa da mia sorella», scrive l'autore, «e ogni volta a prelevarmi e riportarmi è mio figlio». Quello stesso figlio che ha subito direttamente e indirettamente il mio reato, ma che ha voluto riavvicinarsi quasi subito al proprio padre. E poi aggiunge, ad ottobre abbiamo festeggiato il suo 23° compleanno assieme alla sua fidanzata e ai suoi familiari. Ecco, io allora ho cercato Emilio, il figlio di Giacomo, perché sono convinto che anche dentro alla tragedia si ha il dovere, in quanto esseri umani, di vedere una luce. E la frase scritta da suo padre mi sembrava indicasse una luce molto nitida. La ricerca è durata quasi un anno e quando finalmente ci siamo incontrati ammetto che non ero tranquillo. Mi sembrava di entrare in qualcosa di più grande di un programma radiofonico. Ma Emilio aveva accettato di incontrarmi. Lui era stato più coraggioso di quanto non lo fossi stato io. E ero in dovere di rispettare il suo coraggio. A me interessa il fatto che Lorenzo l'anno scorso mi disse... Mi raccontò, poi mi ha dato l'articolo che tuo padre scrive, eccetera, e soprattutto la cosa che mi colpì molto è il fatto che mi disse e suo figlio, quando si è ripreso, una delle prime cose che ha fatto è stata cercare di ricomporre il rapporto con suo padre perché dice io non riconosco nella persona che ho conosciuto per tutta la mia vita la stessa persona che quel giorno ha compiuto questo gesto e quindi io voglio ricomporre il mio rapporto con loro. Questa cosa qui mi ha molto emozionato, cioè veramente l'ho sentita come un punto di vista che francamente quando si parla di femminicidi, quando si parla di questo genere di cose, c'è sempre un po' il voler mettere le distanze, cioè guardare una cosa perché fa paura, mettere le distanze, guardare il mostro e dire cioè è qualcosa che non riguarda me, che riguarda qualcuno X che però sarà distantissimo, sarà lontanissimo. Allora, quello che io vorrei fare con te, il mio tentativo, cioè, è proprio quello, cioè dimostrare che ci sono delle persone che hanno fatto degli errori enormi, ma che sono esseri umani, esattamente come me, e certe cose possono succedere, purtroppo, a chiunque. E soprattutto il punto di vista, appunto, di chi, cioè, ci è passato in mezzo ed è andato avanti. Questa è la cosa. E allora, come sempre facciamo e come sempre dico alla fine di ogni storia seriale che vi raccontiamo qui a Linee d'Ombra, grazie a Mauro per questo lavoro incredibile, grazie ad Emilio e grazie a Giacomo per averci permesso di raccontarlo e per permettere a Mauro di scandagliare così bene la loro storia. Questa sì, lo dicevo dall'inizio, è una storia davvero di confine estremo, sono quelle linee d'ombra che ci auguriamo che nessuno al mondo percorra mai o varchi mai. Ecco, quello che cerchiamo di fare noi è di raccontarle. Noi rimaniamo un passo indietro alla storia, non giudichiamo nessuno, non giudichiamo i protagonisti, non giudichiamo le persone che hanno fatto parte di questa storia, non giudichiamo le loro azioni. È il tempo o la giustizia a farlo per noi? Noi cerchiamo di fare una fotografia della realtà il più onesto possibile, scegliamo chiaramente cosa raccontare e cosa no, quello è una questione, come dire, meramente editoriale e autorale, però siamo sempre convinti che appunto le storie aiutino a conoscere meglio le persone e chi siamo, anche nei meandri più reconditi e più bui. Grazie allora davvero a Mauro Pescio, grazie a Paolo Corleoni, grazie a Anita Panizza, grazie a Luca Micheli. Ora ascoltiamo il GR e noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!